perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Risale la disoccupazione, cresce il numero di occupati ma non tra gli over 50, quasi 60.000 in più sono senza lavoro rispetto ad un mese fa. All'Italia dall'Assemblea via libera la richiesta di commissariamento, rammarico dei soci per i risultati del referendum tra i lavoratori. In Venezuela ancora proteste e scontri, il presidente Maduro propone una costituente, l'opposizione replica un altro tentativo di golpe. In braccio per Le Pen, scoperto un discorso ricopiato quasi interamente dall'ex candidato Fillon, 5 giorni al voto. È morto ad 86 anni Valentino Parlato, fondò il manifesto con Rossande e Pintor dopo l'espulsione dal PC nel 69. Errore nella costruzione della nuvola di Fuxas a Roma, edificio spostato di 2 metri, invade la sede del marciapiedi. Il calcio al via questa sera le semifinali di Champions League, stasera il derby di Madrid, domani in campo la Juve contro il Monaco. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, dalla quale tra l'altro stiamo andando, come sapete e come ogni giorno, in diretta anche video. In apertura, i dati sull'occupazione diffusi questa mattina. Sorpasso a marzo sul fronte disoccupazione. I senza lavoro con più di 50 anni hanno superato per la prima volta dall'inizio delle serie storiche mensili dell'Istat il numero dei disoccupati giovani. Risale ancora il tasso di disoccupazione a marzo all'11,7%, ma tra i disoccupati in cerca di lavoro migliora il dato sui giovani. In questo mese, infatti, quelli tra i 15 e i 24 anni si sono attestati al 34,1%, ai minimi da 5 anni. Anche sul fronte occupazione, per gli over 50, il tasso, in crescita ormai da diversi mesi, subisce un assestamento, mentre a sorpresa l'occupazione aumenta nelle restanti classi di età, in particolare quelle più giovani. I 15-34 anni, infatti, salgono di 44.000 occupati. Alla fine, rispetto a febbraio, rimane invariato il numero degli occupati, con un lieve calo delle donne, mentre su anno si registra un aumento di 213.000 unità. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. E sono ore intense queste per una grande partita che è occupazionale, ma è ovviamente anche una grande crisi aziendale. La vicenda all'Italia, abbiamo in diretta Giorgio Pogliotti del Sole 24 Ore. Giorgio, buongiorno innanzitutto. È partita la richiesta di commissariamento in sostanza. Sì, buongiorno a voi. Come era scontato, del resto, si è riunita prima l'assemblea dei soci, che appunto ha visto venir meno le condizioni che aveva posto per procedere alla ripatrimonializzazione, l'operazione da 2 miliardi di euro che appunto era poi legata però appunto all'attuazione all'intesa con il sindacato. Dopodiché si è riunito il CDA che, preso atto diciamo di questa decisione dei soci e della condizione diciamo anche patrimoniale dell'azienda, ha sostanzialmente votato all'unanimità la richiesta di ammissione appunto all'amministrazione straordinaria da parte, quindi la richiesta è stata formalizzata al Ministero dello Sviluppo Economico. Questo dal punto di vista degli atti puramente formali, adesso ovviamente c'è attesa per capire che cosa farà il governo anche come dire, dopo la vittoria di Renzi alle primarie, quindi è una partita che si gioca dal punto di vista politico, no? Sì. Ahimè, la partita si gioca dal punto di vista politico. Restiamo un attimo però sul terreno ancora diciamo operativo. Allora, oggi si attende, potrebbe esserci già oggi, il ministro Calenda è intenzionato ad accelerare, quindi il decreto con appunto sull'amministrazione straordinaria e la nomina dei commissari, perché il commissario potrebbe essere uno, sicuramente si fa il nome Luigi Gubitosi, o potrebbero essere tre. Quindi si è fatto il nome di Luigi Gubitosi, si è fatto il nome appunto di Enrico Laghi, se fossero tre, che dovrebbero essere affiancati da un giurista, da un esperto di diritto. Poi questi due processi, queste due operazioni però sono legate a un altro aspetto molto importante, che è la, come dire, l'iniezione di liquidità, perché all'Italia ha un disperato bisogno di risorse, perché a breve finiranno le risorse e quindi... Il famoso prestito ponte, no? Esattamente. A quanto dovrebbe ammontare, Giorgio? Dunque, la novità è appunto il governo, mentre originariamente si parlava di 300-400 milioni, si sono resi conto che la situazione è talmente drammatica che 300-400 milioni probabilmente non sono sufficienti. Quindi l'orientamento questa mattina, sentendo fonti di Palazzo Chigi, era appunto 500 milioni. Adesso poi bisogna vedere. Il governo vuole procedere speditamente, quindi potrebbe appunto a brevissimo forse anche nella giornata, riunirsi un consiglio dei ministri straordinario per procedere a questa operazione. Ricordo che la novità è che, avendo il ministro dello sviluppo economico già contattato Bruxelles e condiviso una procedura che prevede la concessione di un prestito ponte a condizioni di mercato, quindi a tassi di mercato, e per un periodo provvisorio 6 mesi, questa procedura non rientra tra le procedure cosiddette degli aiuti di Stato, che richiedono per essere operative richiedono un via libera della Commissione Europea. Quindi in questo caso sarà sufficiente una informativa del governo. Quindi non appena si riunirà il Consiglio dei Ministri, varerà con un decreto il prestito ponte, sarà sufficiente. Non bisogna aspettare il via libera di Bruxelles, ma sarà sufficiente informare Bruxelles. E questo è una boccata d'ossigeno per le casse dell'Italia, evidentemente. Io ti ringrazio intanto Giorgio Pogliotti, e vedremo come evolverà questa giornata, che promette di essere piuttosto intensa. Grazie a Giorgio Pogliotti del Sole 24 Ore. Veniamo, e restando sui temi dell'economia e della politica economica, alle audizioni sulla manovrina che proseguono questa mattina. L'opinione di Confindustria. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. La cosiddetta manovrina di primavera ha iniziato il suo percorso parlamentare con le consuete audizioni delle associazioni e delle parti sociali. Giovedì sarà quindi la volta del ministro dell'economia Padoan. Il provvedimento, lo ricordiamo, risponde alle richieste di Bruxelles di una correzione del disavanzo per circa 3,4 miliardi di euro. Lotta all'evasione e aumento delle tasse su giochi e sigarette sono le principali voci per l'aggiustamento, insieme a un taglio da meno di mezzo miliardo alle spese dei ministeri. Sugli interventi fiscali sono arrivati però le critiche da parte di Confindustria. Nonostante si sia parlato di correzioni senza incrementare la pressione fiscale, spiega il direttore generale Marcella Panucci, appaiono invece evidenti alcuni aumenti del carico impositivo. Sentiamo questo passaggio. La sensazione è che questi settori, in particolare il settore dei giochi, venga considerato un bancomat per le esigenze di bilancio che vengono di volta in volta rilevate da parte dello Stato. Assistiamo all'ennesimo aumento del prelievo erariale unico, che inciderà irreversibilmente sull'equilibrio economico e finanziario di tutta la filiera dei giochi. Quel livello di tassazione degli apparecchi da intrattenimento raggiunge, con le recenti misure, un valore del 52,5% per le videolotterie e 64,3% per le AVP. Questo non ha eguali oltre confine. Per Confindustria, inoltre, tra sostegno alla crescita, taglio del deficit e annullamento delle clausole, non tutti gli obiettivi del DEF saranno raggiunti. Critiche al provvedimento, Simone, anche dai sindacati. Il grande assente è il lavoro, dice la CGIL. Serve una riforma complessiva dell'IRPEF, segnala la CISL. È tutto, linea allo studio. E grazie dunque anche a Vincenzo Miglietta per questo aggiornamento. Noi ci spostiamo all'estero, a partire dal Venezuela, dove proseguono le proteste contro Maduro, che annuncia una costituente, ma l'opposizione replica con durezza. Una riforma costituzionale che delegittima ancora di più il Parlamento. È questa l'ultima mossa del presidente Nicolás Maduro. Un paese ricco di petrolio, con poco più di 30 milioni di abitanti, ormai vicino alla guerra civile. Scontri di piazza e una trentina di morti nelle ultime 2 settimane. 2 crisi si sovrappongono, una politica e una economica. Quella politica è conseguenza di una totale incomunicabilità tra governo e opposizione. Il presidente Maduro assume una postura sempre più dirigista e autoritaria. L'opposizione è divisa tra chi cerca una mediazione e chi è più propenso per una spallata. La crisi economica è invece la conseguenza di errori di politica economica, ma soprattutto di un forte calo dei prezzi del petrolio sul mercato delle materie prime. L'inflazione è al 500% annuo, rende tutto incerto e caotico. Il Venezuela, va ricordato, vive quasi esclusivamente delle esportazioni di petrolio. Roberto Darin, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il canale YouTube Ridicule TV, vicino alla campagna di François Fillon, ha diffuso un video nel quale vengono sovrapposti alcuni passaggi del discorso pronunciato da Fillon il 15 aprile scorso con quello di Marine Le Pen di ieri, 1 maggio, e quindi a 2 settimane di distanza ad un comizio. Ebbene, siamo in radio, non ci resta che farvi sentire un passaggio di tutto questo. Trois façades maritimes. La Manche e la Mer du Nord, ouverte sur le monde anglo-saxon et sur l'immensité septentrionale. La façade atlantique qui nous ouvre depuis des siècles, le grand large qui nous livre ses aventures. La façade méditerranéenne, foyer de civilisations parmi les plus vieilles et les plus riches de l'histoire. Ma il y a aussi trois frontières terrestres. Bene, avete capito che il problema per Marine Le Pen a questo punto si pone, si parla di quello che è evidentemente un plagio, e dalla parte della campagna di Marine Le Pen si dice il suo tentativo di dimostrare che è una, come dire, una candidata più affidabile, più vicina per così dire al centro. Cambiamo decisamente argomento, però rimaniamo all'estero e andiamo in Corea. L'avanzatissimo sistema antimissilistico americano THAAD è diventato operativo in Corea del Sud per contrastare la minaccia nordcoreana. L'annuncio americano mette di fronte al fatto compiuto il futuro presidente della Corea del Sud, che uscirà dalle elezioni del 9 maggio. Alcuni candidati alla presidenza si erano espressi per una revisione della decisione sull'installazione del sistema antimissilistico, che ha fatto infuriare non solo Pyongyang ma anche la Cina, che lo ritiene una minaccia per la sua stessa sicurezza nazionale. Il tema ha suscitato polemiche anche in quanto il presidente Trump aveva detto di voler farne pagare i costi a Seul, il cui ufficio presidenziale ha poi reso noto di aver ottenuto assicurazioni che le parole di Trump vadano, diciamo così, contestualizzate e che in sostanza saranno gli Stati Uniti a sostenere i costi del sistema. Da contestualizzare, secondo funzionari della Casa Bianca, anche le affermazioni di Trump sulla sua disponibilità a incontrare il leader nordcoreano Kim Jong-un, di fatto solo se molte circostanze cambiassero, quindi il summit appare per ora assolutamente impossibile, tanto più che la Corea del Nord ha elevato nuove minacce e ha accusato gli Stati Uniti di volere una guerra nucleare, dopo il volo di due bombardieri strategici americani in un'esercitazione di ieri con velivoli sudcoreani e giapponesi. Stefano Carrer, Radio 24, Sole 24 Ore, Tokyo. E di tutto questo naturalmente torneremo a parlare più, come è evidente, sul lato americano in America 24, a partire dalle 13.45 col nostro Mario Platero. Veniamo alle vicende di Gerusalemme e dell'UNESCO, che tornano in ballo, tornano in campo. Ho dato precise istruzioni di voto al rappresentante permanente dell'Italia presso l'UNESCO, dice il ministro degli esteri Angelino Alfano, di votare no contro quella che l'Italia considera l'ennesima risoluzione politicizzata su Gerusalemme, tra l'altro nel giorno di un'importante festa nazionale israeliana. L'UNESCO, dice Alfano, non può diventare la sede di uno scontro ideologico permanente. L'analisi su questo è di Ugo Tramballi. Per restare al di sopra delle parti del più ostico e duraturo dei conflitti mediorientali, l'Italia non avrebbe dovuto essere il primo paese della UE a dire no alla risoluzione dell'UNESCO. Avrebbe piuttosto dovuto spingere per una posizione più intermedia verso un documento sbagliato e squilibrato, ma in fondo figlio di quel conflitto, la cui soluzione ha bisogno di equilibrio diplomatico. La risoluzione su Gerusalemme, sponsorizzata dai paesi arabi e votata oggi all'UNESCO, non nega le radici ebraiche della città, le ignora, anche se non del tutto. È un documento che non servirà a nulla, tantomeno ad accorciare l'occupazione israeliana della parte araba di Gerusalemme nella progressiva ebraicizzazione di quei quartieri. Anche questo comportamento è sbagliato, quanto l'approvazione della risoluzione UNESCO. Ma il tentativo israeliano di annessione anche nei fatti di Gerusalemme e la velleità araba presentando quell'inutile documento sono il prodotto di quel conflitto per il quale continuano a mancare iniziative serie per una ripresa del negoziato di pace. Oggi nuove audizioni sulla questione migranti ONG. Sentiamo. Arriva in Parlamento il caso nato dalle dichiarazioni del procuratore capo di Catania Zuccaro. Domani il magistrato sarà ascoltato in audizione al Senato, dove stamattina è stato sentito invece il procuratore capo di Siracusa Giordano. Dalle nostre indagini non sono emersi rapporti fra ONG e trafficanti, ha detto il magistrato. Per quanto riguarda asseriti collegamenti obliqui o inquinanti tra le organizzazioni non governative o parti delle organizzazioni non governative o elementi individuali con trafficanti, noi non abbiamo avuto nessun elemento investigativo. Del caso Zuccaro domani si occuperà anche il Consiglio Superiore della Magistratura. A fianco del magistrato nel frattempo si schiera il leader della Lega Salvini, che ha trascorso la notte nel CARA di Mineo. C'è un procuratore come quello di Catania Zuccaro che proprio domani sarà convocato dal grande organismo di controllo della magistratura, perché ha osato dire quello che tutti sanno, ovvero sia che l'immigrazione sia legata a un business da miliardi di euro, e quindi spero che nessuno prenda provvedimenti contro questo coraggioso procuratore. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. È morto Valentino Parlato. Orgogliosamente comunista per tutta la vita, come si legge sul sito del Manifesto, ci ha lasciati Valentino Parlato, scrittore e giornalista. Ciao Vale, si legge sul sito, che a lui dedica una foto in bianco e nero e solo poche sentite parole. Nato a Tripoli nel 1931, Parlato aveva 86 anni e di lui non si può non ricordare l'espulsione dal PC nel 1969 insieme a Rossana Rossanda e Luigi Pintor. I tre, nello stesso anno, diedero vita prima al mensile e poi al quotidiano comunista, di cui Parlato fu più volte direttore. L'ultimo comunista, potremmo dire, conscio però della fine dei partiti, a voler giudicare le ultime dichiarazioni rilasciate nel novembre scorso. Annunciando il suo no al referendum del 4 dicembre, Parlato confessò di avere votato a Roma per Virginia Raggi, sindaco. Anna Rita Rambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo al calcio, alla Champions, le semifinali. Si inizia questa sera col derby madrileno. Carlo Genta, ciao. Ciao Simone, buongiorno a tutti. Sul sipario, sul gran finale di Champions League, con grande fiducia, perché questa sera si gioca appunto il derby di Madrid, tutte le mille stelle del Real contro il ciolismo. Ormai è una filosofia di gioco quella di Simeone, sudore e lacrime. E vediamo chi la spunta sulla via di Cardiff. Tra l'altro, da sottolineare, una copertina di marca molto bella, molto politically correct, con due bimbi che indossano le casacche numero 7 di Cristiano Ronaldo e Griezmann, due avversari stasera. Prendono insieme la metropolitana e sul cartello della metropolitana c'è scritto Cardiff, sede della finale. Uno dei due soltanto andrà là, ma speriamo che ci vada in compagnia della Juventus, che gioca invece domani nel Principato di Monaco. La gara di andata, ed è lì che, insomma, che si concentrano le nostre attese. Stanno tutti bene in casa Juve e speriamo in un'altra grande partita della squadra di Allegri. Vedremo dunque come andrà sia stasera che domani sera. Grazie intanto a Carlo Genta, che ritroviamo alle 14 come sempre tutti convocati. Andiamo a sentire cosa succede sulle strade, ci ritroviamo subito dopo e iniziamo il nostro giro per l'Italia. Ricominciamo da dove l'abbiamo lasciato venerdì, esattamente a questa stessa ora, perché ormai è passato un mese e di Igor alias Norbert non v'è traccia. Tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dei dati sulla disoccupazione, di Alitalia. L'Assemblea ha dato il via libera alla richiesta di commissariamento. Ci siamo occupati del Venezuela, ci siamo occupati di Le Pen, che ha copiato a quanto pare un discorso da Fillon. Ci siamo occupati della morte di Valentino Parlato ad 86 anni e poi ci siamo occupati anche di calcio. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia, mentre siamo sempre in diretta anche sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, diretta video. Che vi succede oggi? Siete pochini, se volete potete commentare anche là. E riprendiamo, come si diceva, da dove abbiamo iniziato. Abbiamo raccontato di tutto, questo ex Igor il russo, adesso Norbert Fehr, questo è il suo nome, l'uomo, l'assassino del barista di Budrio, che ha ucciso anche una guardia ecologica, ancora in fuga nelle campagne, ancora con centinaia di uomini delle forze dell'ordine che sono alla sua ricerca, dipinto progressivamente come una specie di Rambo, con il compagno di cella che racconta che faceva centinaia di flessioni, il suo ex compagno di cella che racconta che faceva centinaia di flessioni. Abbiamo letto che dorme nelle tane delle volpi, si nutre di tuberi che trova per terra. Fatto sta che è un mese che viene cercato in quello che in sostanza è un fazzoletto di terra e non viene trovato. Franco Vanini, giornalista del Resto del Carlino. Ciao Franco, buongiorno. Ciao. E benvenuto ai nostri microfoni. Non è un fazzoletto di terra, ragazzi, sono decine di chilometri quadrati. Ok. Però gli uomini sono anche tanti, no? Sì, però vedi, lui tanto lui si dipingeva come Rambo, ma in realtà piace dipingersi in questo modo, ma in realtà lui è una persona normale che ha avuto sicuramente un'esperienza da militare, ma adesso ha una fedina penale lunghissima, però qualcuno lo sta aiutando. E la dimostrazione è l'ultimo episodio dove ha commesso un passo falso. Cioè, è successo che alla fine della scorsa settimana a Consandolo, che è sempre nella zona vicino tra Argenta e Molinella, si chiama Via Trombone, che è una strada sopraelevata che corre vicino alla provinciale, ed sì. Ci sono molti alberi e vegetazione. Lui si era nascosto lì e l'ha visto un pakistano. Lui è uscito dai cespugli della pista ciclabile e aveva un bastone in mano. Il pakistano si è spaventato perché pensava lo volesse rapinare, gli aveva dato spontaneamente perché per paura il cellulare certo. E il portafoglio per evitare di essere picchiato, sì. Per evitare di essere picchiato. In realtà lui si aspettava evidentemente che qualcuno gli portasse da mangiare, perché non c'è altra spiegazione. E dopo lui è andato via. Allora lui è andato siccome il pakistano ha immaginato che doveva essere lui quello che gli davano la caccia, è andato dai carabinieri. I carabinieri l'hanno portato a Molinella, che funge da punto di raccordo di tutte le ricerche. Sì. Lì hanno perso 2 ore di tempo perché questo qui il pakistano non parlava italiano. Ecco, tanto per cambiare. E allora ha dovuto chiamare, hai 2 ore di tempo in questi contesti e sono tante perché tu lo identifichi in una zona e lui nel frattempo sparisce e va in un'altra zona, evidentemente. Sì, perché certo. Lui è a piedi, ma lui di solito si sposta di notte e si sposta vicino ai canali. Mm-hmm. Sembra di vedere, sai, i film degli indiani oppure dei banditi che sono inseguiti, che per impedire che li vedano vanno dentro i fiumi. Lui va sui canali perché i cani lo inseguono, ecco, hanno il suo odore che l'hanno trovato quando ha ammazzato Valerio Verri. Sì. Ascolta Franco, però qua molti ascoltatori continuano a chiedercelo, no? Al di là di qualcuno che ci dice può contare su qualche aiuto di qualcuno che depista, e sì, è vero, è quello che ci raccontava Franco Vanini, dall'altra parte qualcuno dice, secondo me, ce lo scrive Aldo via SMS, secondo me Igor si è dileguato da tempo, è ancora lì. Allora, infatti si sono chiesti i carabinieri, perché sono due, i carabinieri fanno da punto di raccordo e anche smisto le telefonate, verificano che non abbia degli appoggi con tutte le persone che ha conosciuto in galera e altrove, mentre invece il controllo vero e proprio lo fanno i paracadutisti. Perché rimani sul posto? Le ragioni possono essere solo due: ha nascosto i proventi delle rapine che ha fatto in tutti questi anni in quel posto lì, oppure c'è qualcuno che ha una rete di conoscenze che lo aiuta. Quando io sono andato a Bando, che aveva fatto uno dei suoi giacigli, perché lui cammina sui canali e fa una specie di giaciglio che è fatto in modo che taglia delle canne, sotto mette delle canne per stare un po' più asciutto e sopra se ne mette degli altri per mimetizzarsi. Io sono andato sul posto e non lo trovo, non era facile vedere, era quasi impossibile trovarlo, anche dall'altra parte dei canali. Poi dopo quando vede qualcuno che arriva, si butta dentro nel canale. Nel canale, così i cani non sentono l'odore e lui di fatto sparisce, in sostanza. Esatto. Adesso, in questo momento, lui ha commesso il passo falso con il pakistano, perché il pakistano dopo l'hanno portato in caserma a Molinella, stavo dicendo, e gli ha fatto vedere le fotografie delle segnalettiche. E l'ha riconosciuto. E la descrizione che ha dato è che è un uomo che adesso è messo veramente male, perché è molto smagritto, tutto incavato, capelli lunghi, barba incolta, vestito male, quindi anche perché aiutarlo è molto rischioso. Era andato a Bando perché lui è serbo, lui diceva che era russo, ma in realtà era serbo, nell'armata rossa in realtà è serbo, che aveva dei trascorsi penali anche là. E sicuramente lì nella zona di Bando e altri vicini ci sono dei serbi che mi hanno verificato i carabinieri, che non sono non hanno precedenti penali, ma non vuol dire che siano stinchi di santo, quindi qualcuno l'ha aiutato. E poi magari qualcuno, Franco, aggiungo, e qua ti saluto, poi magari torneremo a chiamarti nei prossimi giorni, qualcuno magari l'ha aiutato anche per paura, insomma, ecco, perché può darsi che ci sia anche questo elemento, insomma, qualcuno che per paura abbia deciso di aiutarlo. Ti ringrazio, grazie a Franco Vanini, giornalista del Resto del Carlino, per averci aiutato ancora una volta a raccontare la vicenda di Igor alias, anzi il vero nome è Norbert Fehr, ormai in fuga da un mese perché è scomparso il 1 aprile. Veniamo ad una vicenda che avevamo già affrontato nella giornata di venerdì. E vi ricorderete la vicenda dell'infermiera che in provincia di Treviso Si era scoperto che, almeno stando a quello che sostiene la ASL e dell'ipotesi sulla quale sta indagando la procura locale, non aveva vaccinato una serie di bambini. I controlli si sono estesi ai luoghi dove questa donna ha lavorato precedentemente. Venerdì abbiamo ospitato l'avvocato di questa donna, perché ci sembra giusto, e come continua a sembrarci giusto, dare il punto di vista anche della difesa e non solamente quello dell'accusa. L'avvocato ci ha detto: attenzione, aspettiamo i dati che arrivano dal Friuli proprio per capire come vanno le cose. Questi dati sono finalmente arrivati e noi siamo in linea col direttore generale dell'AS3, Pier Paolo Benetollo, dell'AS di Codroipo, e siamo in provincia di Udine. Buongiorno Benetollo. Buongiorno. Allora, che cosa emerge da questi primi dati, da questa prima analisi? Emerge quello che serve a noi come azienda sanitaria per prendere decisioni a tutela della salute, della piena sicurezza dei bambini. Mentre invece è chiaro che serviranno le indagini della magistratura per capire effettivamente come è successo, cosa è successo. Quello che emerge e che serve per noi è che non abbiamo la sicurezza che tutte le vaccinazioni somministrate da questa assistente sanitaria siano andate a buon fine, che quindi gli elementi che abbiamo in mano noi ci fanno dire che una quota parte delle vaccinazioni somministrate da questa assistente sanitaria sono state somministrate fra virgolette per finta, e quindi su questa base abbiamo deciso che le vaccinazioni sono ovviamente una cosa assolutamente importante per la salute di tutti i singoli bambini. Abbiamo deciso che, utilizzando un principio di massima precauzione, la cosa giusta da fare sia richiamarli tutti quanti e rifare tutte le vaccinazioni che potrebbero essere state somministrate da questa assistente sanitaria. Voi ovviamente le analisi le avete effettuate su un campione, non su tutti i bambini, nel periodo preso in esame, che se non sbaglio è tra il 2009 e il 2015, no? Certo, assolutamente, sia perché quello che a noi serviva era fare in fretta, e quindi noi, quando abbiamo avuto la prima notizia, è stato giovedì 20, siamo riusciti a organizzare le cose in modo che già lunedì 24 abbiamo cominciato a fare i prelievi, e già in questo fine settimana abbiamo cominciato ad avere qualche risultato. E poi anche perché c'è un problema tecnico, come molti genitori sanno, la maggior parte delle vaccinazioni viene somministrata anche con dei richiami. E quindi ecco che se una vaccinazione è stata somministrata anche da altre assistenti sanitarie, l'esame non può dirci proprio niente. Quindi quello che a noi serviva era capire se il problema che era stato verificato a Treviso poteva essersi presentato anche da noi oppure no. Visto che può essersi presentato, abbiamo deciso di prendere i provvedimenti che servono per dare la piena sicurezza. E richiamerete 7.000 bambini. L'ultima domanda che le voglio fare, Benetollo, è molto precisa sui dati, cioè quanti campioni siete riusciti a far analizzare e in che percentuale, più o meno naturalmente, emerge che il vaccino non è stato somministrato? Noi in questa fase stiamo facendo 200 prelievi circa. Abbiamo la risposta in questo momento di 2/3, però la percentuale non ha nessun significato, perché non sono un campione rappresentativo della popolazione. Noi siamo andati a cercare i bambini che con ogni probabilità avevano fatto l'intero ciclo con lei. La stima di copertura complessiva della vaccinazione sulla popolazione, noi pensiamo che per l'esavalente, che è la vaccinazione che si fa sui bambini piccoli piccoli, sia intorno al 98%. Invece per quanto riguarda le vaccinazioni morbillo, parotite e rosolia, che si fa intorno all'anno, sia più alta, sia un po' più bassa, sia intorno all'88%. Però quello che a noi importa è il fatto che, al di là della copertura attuale, quando nelle vaccinazioni si fanno i richiami... Sì, però mi scusi Benetollo, però questo è rilevante. In questi 2/3, quanti risultavano, diciamo così, non vaccinati o non coperti? Di quelli che sono pochissimi, che hanno fatto l'intero ciclo di vaccinazione con lei, grosso modo 1/3. Però quelli che hanno fatto l'intero ciclo con lei sono pochissimi rispetto all'intera popolazione. Certo. Allora io la ringrazio, grazie per Paolo Benetollo, direttore generale dell'AS3, per essere stato con noi. Le auguro buona giornata e buon lavoro, che sono giorni intensi, buona giornata. Assolutamente sì, buongiorno. E noi adesso ci fermiamo, andiamo come sempre a sentire cosa succede sui mercati, mentre siamo sempre in diretta anche sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, così come su quella di Radio 24, www.facebook.com/radio24, ovviamente. Ci ritroviamo tra un attimo, ci sono i mercati e poi riprendiamo il nostro giro per l'Italia. Beh, riprendiamo da questa storia meravigliosa della nuvola di Fuxas, il nuovo centro congressi di Roma inaugurato dopo mille polemiche. Bene, è stato costruito di 2 metri, spostato e quindi occupa un pezzo del marciapiede. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli, iniziando dalle dichiarazioni che arrivano in questi minuti da Francesco Paolo Giordano, il procuratore capo di Siracusa, in commissione difesa al Senato sul tema delle ONG e dei migranti. A noi come ufficio non risulta nulla per quanto riguarda collegamenti obliqui o inquinanti tra ONG o parti di esse con i trafficanti di uomini. Così dunque il procuratore di Siracusa, che è un'altra delle procure che si sta occupando della vicenda. Risale la disoccupazione, cresce il numero di occupati ma non tra gli over 50, quasi 60.000 in più sono senza lavoro rispetto ad un anno, ad un mese fa. All'Italia dall'Assemblea via libera la richiesta di commissariamento, rammarico dei soci per i risultati del referendum tra i lavoratori. In Venezuela ancora proteste e scontri, il presidente Maduro propone una costituente, l'opposizione replica, è un altro tentativo di golpe. Imbarazzo per Le Pen, scoperto un discorso ricopiato quasi interamente dall'ex candidato di centrodestra Fillon, mancano 5 giorni al voto ed è morto ad 86 anni Valentino Parlato, fondò il manifesto con Rossana De Pinto dopo l'espulsione dal PC nel 69. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, il nostro giro per l'Italia riprende da Roma. Allora, cosa succede? Succede che uno decide di realizzare un'opera che per certi versi è un simbolo, un grande centro congressi, che quest'opera si condisce di tantissime polemiche, dai costi lievitati per l'esecuzione alle polemiche dello stesso autore, dello stesso progettista, che è l'architetto Fuxas, la famosa nuvola. E poi che succede? Che nel momento nel quale vai in realizzazione dell'opera ti accorgi che l'hai costruita 2 metri troppo in là e quindi occupa un pezzo del marciapiede. Sentiamo, va. L'hanno definita la nuvola dei record e sono i numeri stessi a confermare che si tratta di un'impresa ciclopica. Anzitutto più di 18 anni per realizzarla da quando nel 1998 venne lanciato il concorso internazionale che fu vinto dall'architetto Massimiliano Fuxas, il quale della sua opera dice così. Noi facciamo spazi non per noi, ma per gli altri, cioè il nostro cliente si chiama genere umano. Ora, secondo il quotidiano La Repubblica, la nuvola di Fuxas, il nuovo centro congressi romano che dovrebbe iniziare ad ospitare eventi a partire dal 2018, presenta un errore di costruzione e il progetto risulta traslato di almeno 2 metri rispetto al disegno originale. L'errore non sarebbe banale perché l'area edificata non corrisponderebbe più a quella per la quale è stato dato il permesso di costruzione e andrebbe a restringere una delle vie d'accesso stradali alla struttura. Così, dopo l'inaugurazione in pompa magna e i costi lievitati con le conseguenti polemiche dell'Archistar, si è parlato di oltre 360 milioni di euro tra progettazione e oneri di concessione, mentre per Fuxas il costo è di 239 milioni e per il sottosegretario all'economia Paola De Micheli è di quasi 500 milioni di euro. Ora un'altra ombra cala sulla nuvola di Fuxas. L'unica certezza è che servirà una forte volontà politica per risolvere la questione, onde evitare che resti un cantiere ancora per parecchio tempo. Adriana Fracchia, Radio 24, il Sole 24 Ore. E va bene, vedremo come andrà a finire questa vicenda, posto che abbiamo provato a parlare con l'amministrazione romana, la quale amministrazione romana uscirà probabilmente con un comunicato nell'arco della giornata. Abbiamo provato a parlare anche col presidente del municipio, che al momento non ha voluto rispondere. Dunque adesso ci spostiamo, o meglio ritorniamo in Veneto per occuparci di questo, ancora una volta di legittima difesa. Come sapete, ce ne stiamo occupando spesso, non tanto noi ma un po' tutta la radio, ovviamente molto spesso i colleghi della Zanzara. Ieri una bella puntata firmata da Oscar Giannino nella sua versione di Oscar in onda alle 16.30, tra l'altro c'è anche il podcast, ma noi ce ne occupiamo per un fatto specifico. Succede questo: Massimo Zen, guardia giurata, che cosa succede? A Treviso aveva sparato e aveva ucciso Manuel Maior, componente di un comando dedito agli assalti al Bancomat. Succede che ha ricevuto una lettera che a quanto pare, o meglio un'email, che sembra scritta dai membri del clan di Maior, che dice questo: vi porteremo la ditta, lo ha ricevuto, la ditta per la quale lavora, vi porteremo la testa di Massimo Zen infilata in un ferro da spiedo. Pagherete anche voi per il bastardo del vostro compagno che ha ucciso Manuel. La notizia è stata data da Roberto Zancan, titolare della gioielleria di Nanto, che è stata vittima di un agguato di banditi nel 2015. Ed è con noi Zancan, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno. Allora, il testo è questo, no? È quello che ha riferito lei? Sì, più o meno. Sì. Qui davanti, e se volete ve lo leggo anche per intero, come sì, come no, come no. Allora, pagherete per il vostro, anzi no, pagherete anche voi per il bastardo del vostro compagno che a Treviso ha ucciso Manuel, uno dei nostri. Siete pezzi di merda, neanche sbirri, solo pagliacci servi dei padroni che vi pagano. Solo questo dovete fare. Vi portiamo la testa di Massimo Zen infilata in uno spiedo, figli di puttana. Questo è il messaggio che è arrivato la sera dopo di quello che è successo. Questo è il testo completo. Zancan, questo mi sembra di aver capito che non è un caso isolato, cioè le minacce dopo che avvengono dei casi come quello appunto di Zen, come il suo, come quello di altre persone appunto che hanno ricorso alle armi per difendersi dai ladri o da quella che ritenevano essere un'aggressione, sono piuttosto frequenti. Sì, guardi, io parlo di prima persona perché ho ricevuto due minacce di morte da questi soggetti, perché tanto sappiamo da dove arriva tutto, no? Perché loro non si possono toccare, perché tra virgolette devono continuare a fare i banditi indisturbati, no? Anche perché c'è un sistema che glielo permette di fare. Anche adesso, anche in questo caso specifico, la guardia giurata, che oltretutto è una persona che conosco anche bene, che ha fatto anche servizi presso la nostra azienda, non è possibile che questo sia già questa persona sia già, come si dice, indagata per omicidio volontario. Fin di conti lui ha fatto il suo dovere, non si è girato da un'altra parte. Questi qua lo stavano investendo, lui cosa ha fatto? Ha reagito. È inutile che adesso vengano fuori sempre tutti questi discorsi che ma si doveva, non doveva, cioè chi è che lo fa? Sì. Noi cittadini... No, noi, ma al di là della questione, Zancan, al di là di questa questione, che è quella, chiaramente è quella della quale si dibatte in queste ore, se ne discute molto, forse arriveranno delle modifiche di legge, c'è un tema qua che riguarda le minacce successive che ricevono queste persone, che ricevono persone anche come lei e non solo. Che lei sappia, c'è stato un incremento della protezione nei confronti di quest'uomo oppure no? Beh, io mi auguro di sì, da quello che so io sì, gli stessi suoi colleghi, le guardie giurate stesse si sono prodigate e messe a disposizione per la protezione di lui, questo poco ma sicuro. So anche per certo che adesso hanno anche l'obbligo di girare tutti quanti col giubbotto antiproiettile, tutte quante le guardie dello staff della compagnia lì. Sì, perché la minaccia, quel che ho capito, non è non riguarda solamente Zen, ma no, si è estesa a tutta l'azienda in realtà. Esattamente, perché loro partono sempre, pagherete anche voi. E ci diceva che questa azienda ha fatto servizio anche presso di voi, no? Sì, beh, 30 anni che collabora con me, tutto il servizio porta lavori, io l'ho sempre affidato a loro. La vigilanza, perché noi abbiamo la vigilanza armata sia in apertura che in chiusura, è affidata a loro. È da 30 anni che ci conosciamo, è un'azienda non seria di più. Allora io la ringrazio, grazie per questo racconto, Zancan. Lei ritiene che ci voglia un supplemento di protezione? Ultima domanda che le voglio fare, anche nei confronti di persone come voi. Poi al di là di come finiscono le vicende giudiziarie, no? Perché poi quello è di come procederanno le modifiche normative, perché poi quelle sono cose che vedremo successivamente e si vedrà come andranno. Ci vuole un incremento di protezione, secondo lei? Cioè lei si sente a rischio dopo quello che è successo? Certo che sì, però vede, non è intanto quello che dobbiamo fare dopo, perché è solo tamponare. bisogna mettere le mani a monte, cioè i delinquenti devono essere via dalle strade, dentro le patrie galere, le pene devono essere certe, ci devono essere delle leggi serie che proteggono noi cittadini che lavoriamo onesti o chi fa anche le forze dell'ordine, che io voglio che siano loro che proteggono noi, non noi, perché noi non siamo neanche abilitati per poterlo fare, ma nel frattempo se questo non avviene siamo costretti a farlo. Il problema va risolto a monte, adesso è tamponare la vigilanza, cioè il supporto. Certo che serve, perché viva Dio, sappiamo che questi non hanno nulla da perdere, però bisogna fermarli prima, dopo è sempre troppo tardi, capisci? Eh certo, la ringrazio. Grazie Roberto Zancanti, titolare della gioielleria di Nantolo, ricordiamo vittima di un agguato di banditi nel 2015. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, poi c'è Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.